8. Ascolta e controlla. 1. Quando verrai a trovarmi? Non lo so, forse ci verrò lunedì prossimo. 2. Quando andrete in Cina? Ci andremo quando avremo i soldi. 3. Prossimamente voi rimarrete a casa? No, se staremo bene, faremo un viaggio. 4. Lui tradurrà in inglese la sua tesi di laurea e poi vorrà riposare un po'. 5. È un segreto. Tu non dirai niente a nessuno. Terrai la bocca chiusa? 6. Quando darete gli esami della sessione estiva? Daremo gli esami presto. 7. Se lui andrà a quella festa, berrà come una spugna. 8. Comprerai un bel paio di occhiali da sole? Certo, acquisterò gli occhiali domani. 9. Avrò bisogno solo di un nuovo paio di scarpe. Non prenderò altro. 10. Domani c'è il test. Ricorderai che paio è maschile e paia è femminile?